Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Referendum, il TAR dichiara inammissibile il ricorso dei 5 Stelle Sinistra Italiana sul quesito. La giurisdizione non è nostra, dice il Tribunale amministrativo. Potrebbe essere fallita la missione europea su Marte. La sonda Schiaparelli non risponde, il paracadute si è aperto ma potrebbe essersi schiantata. In Siria, ad Aleppo, ha aperto il corridoio umanitario, ma al-Nusra minaccia morte ai civili che lasciano la città. In Iraq, a Mosul, accelera l'avanzata per strappare la città all'ISIS. Ultimo dibattito prima delle presidenziali americane. Secondo i sondaggi ha vinto Clinton. Burattino di Putin, dice lei a Trump, il repubblicano. Non so se riconoscerò il risultato. Morta dopo l'aborto di due gemelli, accuse all'ospedale. Il medico non è voluto intervenire perché obiettore. Al momento nessun riscontro, dice la procura. Bullismo, 4 milioni di visualizzazioni per il video di una ragazza che ne picchia un'altra in Sardegna, rimosso da Facebook ma ancora reperibile in rete. Centinaia di migliaia di cimici invadono il nord-est. In alcune zone la gente si barrica in casa, gli agricoltori parlano già di danni, si pensa alle contromisure. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura, dunque, parliamo del referendum e dell'attesa decisione del TAR. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, il TAR non è il luogo adatto per ricorrere sul quesito referendario già approvato dalla Corte di Cassazione. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo del Lazio respinge il ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana sul testo in votazione il 4 dicembre, che a parere delle opposizioni era uno spot per il governo. Il ricorso è inammissibile per difetto giurisdizionale. In pratica il TAR è impossibilitato a decidere su una materia già valutata dall'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Cassazione e poi recepito dalla Presidenza della Repubblica, organi che si caratterizzano per la loro assoluta neutralità. Dal Movimento 5 Stelle però la decisione di andare avanti, leggeremo le motivazioni, dice Danilo Toninelli, e agiremo di conseguenza perché non è una bocciatura nel merito. Per Loredana De Petris di Sinistra Italiana bisogna conoscere le motivazioni della sentenza, perché se fosse stato solo un difetto di giurisdizione non ci sarebbero voluti 3 giorni ma 2 ore. Per l'Associazione dei Consumatori Codacons la battaglia si sposta adesso in Cassazione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo di parecchi chilometri. La sonda lanciata su Marte, la missione non sembra aver avuto successo. Ancora suspense per Schiaparelli, il lander rimasto in silenzio per tutta la notte a 50 secondi dal suo previsto atterraggio su Marte. L'Agenzia Spaziale Europea ammette di non sapere nemmeno se sia ancora integro. Il suo paracadute si è aperto correttamente e ha funzionato nella fase iniziale della discesa, ma al momento non ci sono dati per capire cosa sia successo negli ultimi 50 secondi. Così Andrea Comazzo, direttore della Divisione per le Missioni Planetarie dell'ESA, nella conferenza stampa presso il centro di controllo di ExoMars, la missione russa ed europea programmata per sondare il pianeta rosso. We have on ground all the data to understand what has happened there. Abbiamo tutti i dati per capire quello che sta succedendo. Non crediamo che il lander si trovi esattamente dove ci saremmo aspettati, continua Comazzo. Buone notizie però dalla sonda della missione di ExoMars CGO, che è operativa e dovrebbe fornire dati sufficienti per essere d'aiuto alla missione ExoMars 2020, il progetto che porterà sul suolo del pianeta rosso il primo rover marziano europeo. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca con Catania, dove si indaga sulla morte di una donna dopo un aborto. A 4 giorni dalla morte della 32enne Valentina Milluzzo di Palagonia, in provincia di Catania, deceduta domenica scorsa qualche ora dopo i 2 gemellini che portava in grembo al 5° mese di gravidanza indotta con la procreazione assistita, dalla procura etnea oggi emerge un dettaglio. Il medico di turno non era un obiettore di coscienza, come scritto invece nell'esposto presentato da familiari, secondo cui il sanitario si sarebbe rifiutato di estrarre uno dei 2 feti che aveva gravi difficoltà respiratorie fino a quando fosse rimasto vivo. Una notizia destinata a gettare nuove ombre su un ennesimo presunto caso di mala sanità. Per i magistrati, dunque, la ricostruzione dei familiari della vittima al momento non trova alcun riscontro in un atto formale come la cartella clinica. Tutto questo quando, tra stasera e domani, arriveranno all'ospedale Cannizzaro di Catania gli ispettori del ministero inviati da Roma. Letizia Carrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania. E più avanti nel nostro giro per l'Italia proveremo a farci dare ulteriori chiarimenti su questa vicenda. Lo faremo col direttore generale dell'ospedale Cannizzaro di Catania, Angelo Pellicanò, e gli porremo qualche domanda su questa vicenda. Ora all'estero, iniziando da Siria ed Iraq. Ad Aleppo scatta la tregua per aprire un corridoio umanitario. A Mosul l'offensiva prosegue, i servizi. I militari schierati, le camionette, la bandiera siriana che sventola, strade e ferrovie deserte. E questo che si vede al momento nelle immagini, riprese dalle telecamere e dai droni russi posizionati nei punti strategici di Aleppo. I video, pubblicati sul sito del Ministero della Difesa russo, testimoniano in diretta il ritiro dei miliziani dalla città dopo la tregua umanitaria voluta da Mosca e scattata questa mattina alle 7 ore italiane, che durerà fino alle 18, le 19 locali. Durante queste 11 ore, comunicano le autorità siriane, i combattenti terroristi hanno la possibilità di arrendersi e uscire dai quartieri orientali di Aleppo, e i civili, in particolare malati e feriti, potranno lasciare la zona grazie all'intervento della Mezzaluna Rossa siriana e delle agenzie dell'ONU. Secondo i media russi, però, gli jihadisti dell'ex fronte al-Nusra minacciano di sparare contro chiunque passi dal corridoio umanitario e si sono già sentiti colpi di mortaio. Intanto la cancelliera Angela Merkel, dopo il vertice notturno con Putin e Hollande, invita l'Unione Europea a valutare nuove sanzioni contro la Russia per i raid su Aleppo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È partita l'offensiva su vasta scala da parte dei Peshmerga curdi nella parte settentrionale e orientale di Mosul. La città irachena finora nelle mani dell'ISIS. Con l'appoggio di decine di raid aerei della coalizione a guida americana, i Peshmerga curdi combattono per la presa di Batnai, località tra la zona curda, e Tel Kaif, principale cittadina a nord di Mosul e ultima difesa prima della periferia della città. È stato anche scoperto un tunnel scavato dagli jihadisti lungo 800 metri, attraverso il quale facevano passare anche veicoli militari. Lo ha riferito la TV satellitare curda irachena, che trasmette in diretta i sonori della battaglia che vi stiamo facendo sentire. L'esercito iracheno contemporaneamente sta attaccando la città da sud. Il primo ministro iracheno Haidar al-Abadi è ottimista. Ha dichiarato in conferenza stampa che la conquista di Mosul procede più velocemente del previsto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, va a Hillary Clinton, stando ai sondaggi anche il terzo e ultimo confronto televisivo tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Trump è partito abbastanza bene, ma ha ceduto soprattutto quando si è toccato il tema della Russia. Because he'd rather have a puppet as president of no the United puppet, States. No puppet. And qua si parla di Putin e Hillary Clinton dice a Trump che sarebbe un burattino nelle mani del presidente russo, suscitando la reazione del candidato repubblicano, che però non riesce a controbattere con efficacia. Trump è inciampato anche sulla domanda del giornalista: riconoscerà il risultato come valido in qualunque caso? Vedrò il risultato e poi scioglierò la riserva, ha detto Trump, sollevando di fatto un sospetto preventivo su eventuali brogli. E dei rapporti a proposito di Russia. Tra l'Occidente e la Russia si sta parlando a Verona, dove si è aperto oggi il forum euroasiatico per il rilancio delle relazioni dello scambio, proprio con Mosca. Romano Prodi, ex presidente della Commissione Europea, ora presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, al microfono della nostra inviata Laura Bettini. Ripeto, senza entrare negli aspetti particolari dei problemi che ci stanno dividendo, come l'Ucraina, soprattutto l'Ucraina, ma anche il caso siriano, però ripeto, quella rottura completa è una roba da vecchi tempi, senza voli pindarici, senza illusioni, ma dopo avere parlato, cercato di vedere dati, e dico, ma insomma, c'è secondo me lo spazio e la possibilità di ricominciare a dialogare direttamente su questi problemi, senza essere guidati da interessi soltanto esterni. Così dunque Romano Prodi, oggi Consiglio Europeo, Sergio Nava, eccoci. Sì, buongiorno, immigrazione, commercio internazionale, Russia, i tre temi principali nel menù del vertice che si apre tra circa 3 ore a Bruxelles. Come ciliegina sulla torta aggiungiamo anche la Brexit, si tratta del primo summit con la presenza della neo premier britannica May. Il tema principe d'agenda dovrebbe essere quello dei migranti, si farà il punto sulla protezione delle frontiere esterne e sugli accordi per i rimpatri, mentre per quanto riguarda il controverso meccanismo dei ricollocamenti si cercherà di evitare di urtare troppo la sensibilità dei paesi dell'est. Oggi il premier ungherese Orban è tornato a ripetere che i confini esterni dell'Unione devono essere difesi dai paesi interessati. Orban a sorpresa ha lodato l'operato di Angela Merkel. Senza la cancelliera tedesca l'Europa sarebbe stata più debole a causa di tutte queste crisi. Sulla Russia non si dovrebbe arrivare a ulteriori sanzioni verso Mosca a causa di Siria e Ucraina, sebbene la Merkel, come abbiamo ascoltato, insista per non privarsi dell'ipotesi di un inasprimento. L'Italia, ma non solo qui, è fermamente contraria. Sul trattato di libero scambio col Canada, bloccato clamorosamente dalla regione belga della Vallonia, si dovrà probabilmente prendere atto della necessità del rinvio della firma, ringraziando Ottawa per l'infinita pazienza. Infine, notizia dell'ultima ora, la Commissione Europea non esclude un bilaterale Juncker-Renzi, e qui invece parliamo ovviamente dei problemi che riguardano la nostra manovra. Per il momento è tutto. E grazie dunque a Sergio Nava, che già ci accennava della nostra manovra. Ebbene, sentiamo le novità di oggi. La legge di bilancio potrebbe approdare con qualche giorno di ritardo alla Camera rispetto alla scadenza di legge prevista per oggi. Approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri con la formula salvo intesa, la manovra dovrebbe arrivare in Parlamento al più tardi lunedì, se non durante il fine settimana. Governo e tecnici sono al lavoro per limare l'impianto della legge licenziato da Palazzo Chigi 5 giorni fa. Il decreto legge sulla rottamazione delle cartelle esattoriali e sulla voluntary disclosure allargata al contante occultato in Italia sarà invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra stasera e domani, dicono al Ministero dell'Economia. Il ritardo sulla consegna della legge di bilancio alla Camera non preoccupa il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Abbiamo un obbligo di legge, dice, la manovra va approvata entro il 30 dicembre, non ci saranno problemi. Buone nuove intanto potrebbero arrivare sul fronte della crescita. Ci sono segnali, anticipa il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, che fanno pensare a un terzo trimestre positivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di andare al prossimo servizio vi do un aggiornamento sulla vicenda della missione su Marte. Il lander Schiaparelli della missione ExoMars è caduto sul suolo di Marte. I suoi retrorazzi hanno funzionato soltanto per 3 secondi, dopodiché il computer di bordo li ha spenti. Lo ha riferito Paolo Ferri, direttore delle operazioni di volo delle missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, all'agenzia di stampa ANSA. Siamo allo sciopero di domani. Dalla scuola ai trasporti, servizi pubblici a rischio per un'intera giornata a causa dell'agitazione proclamata da OSB, Unicobas e USU. Uno stop per protestare, spiegano, contro le politiche economiche del governo Renzi dettate dall'Unione Europea, nonché per la difesa e l'attuazione della Costituzione e il no al referendum. Il settore più caldo sarà quello dei trasporti, secondo i sindacati, colpito da ristrutturazioni, privatizzazioni e tagli al personale. Per il trasporto pubblico locale, disagi di 24 ore, nel rispetto delle fasce protette con modalità diverse da città a città. Per il trasporto aereo, stop da mezzanotte per 24 ore di tutto il personale navigante e operativo, con il rispetto delle fasce dei voli garantiti. Per il trasporto ferroviario, regolari Frecce Trenitalia e i convogli nella tabella dei treni garantiti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo dallo sciopero al trasporto su strada, cioè andiamo a sentire cosa succede appunto sulle strade italiane, e dopodiché ci ritroviamo con il nostro giro per l'Italia, che inizierà proprio da Catania per cercare di chiarire meglio questa vicenda della donna che è morta dopo l'aborto di 2 gemelli e le accuse che vanno al medico che era di turno in quel momento. Secondo la famiglia non è voluto intervenire perché era un obiettore. Ci occuperemo poi di un video, ve lo abbiamo accennato nei titoli, forse avrete sentito parlare, di un video che sta circolando, ha avuto 4 milioni di visualizzazioni, un'aggressione da parte di una bulla nei confronti di un'altra ragazza in Sardegna, di inusitata violenza. Oggi sono arrivate le scuse della bulla alla ragazza, e però questo video purtroppo è ancora visibile su internet. E poi parleremo di molto altro, a partire da questa invasione delle cimici nel nord-est, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della decisione del TAR sul referendum, del probabile fallimento della missione europea su Marte, abbiamo parlato di Siria, abbiamo parlato di Iraq, abbiamo parlato del dibattito sulle presidenziali, delle presidenziali americane, e torneremo a parlare naturalmente in America 24. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Catania innanzitutto, come già vi dicevo. La vicenda è questa, la vicenda è di una donna, ve l'abbiamo raccontato anche nei giornali radio, una donna di 32 anni che arriva nell'ospedale Cannizzaro di Catania con evidentemente dei problemi, è incinta, aspetta due gemelli. Ebbene, la donna è morta, sono morti anche i due feti. Secondo la denuncia della famiglia, il medico di turno si sarebbe rifiutato di estrarre il feto, che aveva gravi difficoltà respiratorie fino a quando fosse rimasto vivo, perché obiettore di coscienza. Questo è quello che ha raccontato la famiglia. La procura ha aperto un'inchiesta, come vi abbiamo raccontato, sulla cartella del medico non risulterebbe come obiettore. Per farci chiarire un po' di cose abbiamo chiamato Angelo Pellicanò, che è direttore generale dell'ospedale Cannizzaro. Buongiorno Pellicanò e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa è successo? No, guardi, è successo certamente un evento drammatico, tragico, che è quello del decesso di una madre e di due feti di 19 settimane, e quindi questo è già un fatto di per sé molto, molto grave. Ma la notizia per la quale siamo stati tutti quanti, anche io sono balzato sulla sedia, è quella che il medico si potesse dichiarare obiettore di coscienza in sala operatoria. Allora, questo non è assolutamente vero, per due ordini di ragioni. Uno, perché non c'è un dato di fatto che lo dimostri, né in cartella né dai riscontri che ha fatto fin qui l'autorità giudiziaria. Due, perché il medico obiettore lo è ai fini di una legge, che è la legge 194 del 78, ovvero sia la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Cioè, il medico può dichiararsi obiettore semplicemente quando si trova di fronte a una richiesta di interruzione volontaria di gravidanza. Per il resto deve intervenire secondo scienza e coscienza. E quindi, quando ci sono rischi, come in questo caso per la madre, anche il medico obiettore deve intervenire, un suo dovere assolutamente preciso. Assolutamente sì, assolutamente sì, come è avvenuto d'altra parte, come naturalmente non abbiamo i tempi tecnici per descriverlo, ma certamente in questo caso è avvenuto così come ha detto lei, cioè si sono rispettate le procedure e gli standard che sono previsti in casi di parto abortivo, in cui che poi alla 19ª settimana, perché si tratta di un parto abortivo alla 19ª settimana di una donna con una gravidanza a rischio, che poi si è complicato con uno shock settico e quindi con un evento assolutamente naturalmente ingovernabile, perché quando si arriva a un certo punto di questo shock, dello shock settico, la situazione poi purtroppo, come in questo caso, in molti casi, e in questo ospedale si interviene in maniera eccellente, anche in questi casi, purtroppo in questo caso non è stato possibile fare il più di quello che si è fatto. Pellicanò, ce la chiarisce una cosa, il medico che era di turno e che è intervenuto su questo caso, era obiettore obiettore oppure no? Allora, i medici che lavorano nel reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale Cannizzaro sono obiettori, tranne uno che viene dall'esterno in convenzione e fa la sua pratica di abortiva, la attua in tutti i casi in cui la legge lo richiede e rispettando assolutamente i tempi di attesa. E noi tempi di attesa per interruzioni volontarie di gravidanza non ne abbiamo. Quindi la legge viene rispettata, quella legge di cui le dicevo prima, la 194 e 78, viene perfettamente rispettata. Viene perfettamente rispettata, posto il fatto appunto che all'interno in realtà dell'ospedale, come mi diceva ma questa è una scelta, vede, questa è una scelta sulla quale possiamo discutere quanto vogliamo. All'infinito, dice lei, sì. E se ne discute anche molto, cioè lo vedo anche da quello ovviamente che scrivono gli ascoltatori. Italia, quasi in tutta Italia è così, quindi poi non è questo mal comune mezzo guardi, è così. Posso non essere d'accordo io su questo, ma la legge consente al medico di diventare diventare obiettore. Senta una cosa, Pellicanò. Lei esclude completamente, anche immagino conoscendo il medico che è intervenuto, che un fatto di questo genere possa essere avvenuto? Perché se lui ritiene, la ritiene una questione di coscienza, questa cosa qua, ascolti, la coscienza è stata tutt'altro, cioè lui ha avuto la coscienza nel caso di questi feti, perché parliamo di feti, quindi parliamo di feti alla 19ª settimana, quindi parliamo di aborto. Lui addirittura nel secondo caso, nel feto del secondo caso, ha indotto lui addirittura l'aborto. Quindi di che cosa stiamo discutendo? Ma dico, la questione purtroppo viene resa, molto eclatante, assume questo tenore mediatico, perché appare per a me. Quando l'ho sentito mi è sembrata veramente inverosimile, sì. E se fosse stata vera, che era molto grave, perché sì. Un medico nella propria attività con una donna che rischia la vita non può dire sono obiettore di coscienza, e non lo ha detto. Probabilmente assume questa eco, Pellicanò, detta francamente anche per i motivi che ci dicevamo poco fa, insomma il fatto che nel vostro ospedale, così come in tanti ospedali italiani, l'eco arriva evidentemente anche per questo motivo. Allora io le aggiungo questo, poi chiaramente sono disponibile per qualsiasi altro chiarimento quando lei vuole. Nel 78, questa legge è del 1978, sono passati quanti anni? 40 anni, quasi, no? Allora, una legge di 40 anni fa, così come quella, la 180, quella della malattia psichiatrica, dei manicomi, la famosa legge Basaglia, sono leggi che erano adatte a quei tempi. Oggi probabilmente bisognerebbe fare un tagliando anche a queste leggi, ma non sta né a me né ad altri dire se ci sono chi lo deve vedere, chi lo deve capire. Quindi suscitare dei sensazionalismi, capisco, anche su queste vicende. No, ma infatti vede che abbiamo chiamato lei proprio per farci chiarire come sono andate le cose. Io sono contento di poter dare queste spiegazioni. Poi, ripeto, ognuno di noi nella nostra attività sbagliamo, commettiamo degli errori, però in questo caso io escludo completamente che ci sia stata una dichiarazione o la volontà di obiettare qualcosa da parte del medico. La ringrazio. Grazie Angelo Pellicanò, direttore generale dell'ospedale Cannizzaro di Catania, per essere stato con noi. Ovviamente poi l'inchiesta della procura andrà avanti e vedremo che cosa ne emergerà. C'è una vicenda che arriva dalla Sardegna, un video che ha fatto, come si dice, il giro della rete. È stato su Facebook, è stato visto da 4 milioni di persone, ed è un video, abbiamo deciso di non trasmettervi nemmeno l'audio perché è veramente disturbante. È il video di una ragazzina picchiata da una bulla, una sua compagna di classe, una sua compagna di scuola. Come si diceva, 4 milioni di visualizzazioni, è stata richiesta la rimozione a Facebook. Fatto sta che appunto questo video ha fatto il giro della rete e in realtà è ancora visibile in rete su una serie di piattaforme. Qualche ascoltatore ci segnala che è ancora visibile su Facebook nonostante sia stato rimosso. L'avvocata, o almeno così è stato dichiarato, l'avvocata Valeria Aresti è presidente del centro studi Domino, che si occupa di violenza e disagio relazionale con particolare attenzione alle donne e ai minori, e sta seguendo un po' la vicenda proprio da là, dalla Sardegna. Avvocato Aresti, benvenuta. Grazie a voi, benvenuti a voi. Eccoci qua. Allora, che cosa ci dice? A quanto pare questa rimozione non ha funzionato. Facebook ha annunciato la rimozione, poi sappiamo che non è così semplice quando si tratta di un video che ha avuto una condivisione così importante come quella del video che stiamo discutendo, quindi attendiamo che il video venga rimosso quanto prima, quindi si giunga definitivamente alla totale oscurizzazione delle immagini molto violente che purtroppo hanno avuto come protagoniste questi ragazzini. Che sono stati esposti in maniera così violenta alla divulgazione di aggressioni violente. Se voi immaginate che stiamo parlando di un piccolo paesino della Sardegna che complessivamente conta 1,5 milioni di abitanti e che questo video è stato visualizzato subito dopo la notizia da circa 3 milioni di di utenti e che a fine serata aveva raggiunto, come lei ricordava prima, 4 milioni di visualizzazioni, insomma le dimensioni sia del fenomeno sia del fatto che la situazione sia sfuggita di mano è sotto gli occhi di tutti. Sì, da rendere la vita impossibile probabilmente per entrambe le ragazze nel loro paese, no? Perché proprio per questa ragione noi abbiamo chiesto immediatamente la rimozione, perché qui stiamo parlando di due vittime sostanzialmente. La prima indubbiamente è la ragazzina che è stata picchiata, schiaffeggiata con un'umiliazione, offesa che è stata anche amplificata dalla presenza del gruppo scuola, dei suoi compagni e degli altri studenti dell'istituto frequentato dalle ragazzine, che ovviamente ha subito il danno più principale, diciamo, ma anche la ragazzina autrice della violenza a sua volta ha subito un ulteriore danno a seguito delle aggressioni verbali, minacce anche gravi che ha ricevuto dai vari commenti degli utenti. Abbiamo letto veramente frasi preoccupanti e offensive. Se noi pensiamo che stiamo parlando di ragazzini, sì, devi morire, ti ammazzerei, sì, le abbiamo lette anche noi. Esattamente, quindi frasi abbastanza delicate, gravi, che devono destare preoccupazione, destano preoccupazione anche per la ragazza, appunto, autrice della violenza. Stiamo parlando dei ragazzini in una piena fase formativa della loro personalità, e le conseguenze di questa divulgazione virale delle immagini e anche dei commenti che ne sono seguiti sono veramente incalcolabili e imprevedibili. Ricordo che la cronaca purtroppo ci racconta quotidianamente, sì, anche di conseguenze molto gravi di persone, anche minori, che si sono tolte la vita a seguito di una divulgazione virale. Sì, il video è presente anche su altre piattaforme, non diciamo quali naturalmente, state procedendo anche su quelle? Sì, noi abbiamo chiesto la rimozione dalla rete, quindi complessivamente da ogni piattaforma, perché riteniamo che sia l'unico modo per agire una tutela nei confronti di tutti i minori coinvolti. Un ascoltatore, Luca, riflette amaramente, dice: hanno ripreso il video senza fare nulla. Beh, guardi, nel video si vedono addirittura i ragazzi che ridono dietro, un gruppo di 20 ragazzi che ride dietro mentre questa ragazza viene picchiata. Quindi non è solamente la ripresa del video, ma come dire, da questo punto di vista è molto peggio. Esattamente, non si sono limitati a non fare, hanno fatto, e cioè hanno poi incitato e supportato la ragazzina autrice della violenza e hanno anche commentato poi infierendo ulteriormente al termine dell'episodio. Io la ringrazio, grazie Valeria Aresti, avvocato e presidente del Centro Studi Domino, per essere stata con noi. Ci segnala tra l'altro qualche ascoltatore che ci sono dei TG che hanno addirittura trasmesso questo video e poi alla fine, nella sostanza, incitando la gente ad andarselo a cercare. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, e poi nella seconda parte della trasmissione riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Avremo tra l'altro un grande classico: la chiusura dei negozi nei festivi. Ebbene, il Friuli Venezia Giulia ha varato una legge che prevede multe salatissime e la Confcommercio di Trieste si sta ribellando. Dice: no, noi il 1° novembre vogliamo rimanere aperti. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: sul referendum il TAT dichiara inammissibile il ricorso di 5 Stelle e Sinistra Italiana. Potrebbe essere fallita la missione europea su Marte, la sonda Schiaparelli non risponde. In Siria ad Aleppo ha aperto il corridoio umanitario, ma al-Nusra minaccia morte ai civili che lasciano la città. Ultimo dibattito prima delle presidenziali americane, secondo i sondaggi ha vinto Clinton. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Prima di farci un bel giro nel nord-est tra il Friuli Venezia Giulia e poi andremo a Padova per la questione delle cimici, che in realtà riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, con il nostro Dario Ceccarelli che è in studio con noi. Parliamo del Forum Sport e Business organizzato oggi al Sole 24 Ore, dove tra l'altro c'era anche Tavecchio. Parecchio si è parlato di, insomma, dei quattrini delle società di calcio. Dario. Sì Simone, buongiorno. Come hai detto tu, questa mattina al Sole 24 Ore si è parlato di sport e del suo stato di salute e soprattutto di finanziamenti e del ruolo del settore pubblico. Una nota: il mondo ha fame di sport, crescono le sponsorizzazioni, il costo dei diritti televisivi e si cerca di catturare utenti nuovi con la rivoluzione digitale, i social e nuove tecnologie. Ma il problema numero uno è il solito, quello delle risorse e delle strutture, affrontato, come dicevi tu, dal presidente Federcalcio Carlo Tavecchio, che ha fatto un'analisi impietosa del nostro calcio. Tavecchio ha detto che il gap con la Germania, la Spagna e l'Inghilterra è notevolissimo, che le nostre squadre sono in deficit conclamato e che 102 squadre professioniste sono troppo, il doppio che negli altri paesi importanti. Sentiamo Tavecchio. Noi, l'analisi del calcio italiano col deficit conclamato bisognerà valutarla in termini economici e strutturali, e tutti gli investimenti che si stanno facendo tendono a recuperare questa situazione. Praticamente io credo che se delle aziende straniere vengono in Italia a investire con criteri sportivi e di indirizzo industriale, a noi fa piacere. E cosa può fare il calcio italiano per ripartire? Fa una domanda al calcio italiano per ripartire, deve fare gli investimenti, deve fare, e poi deve trovare una costruzione anche di giovani che possono portarsi alla ribalta di un mondo che in questo momento ha problemi. Ecco, giovani che però mancano nelle squadre importanti, i talenti italiani si contano al lumicino e poi avanzano gli stranieri anche nella governance. Il capitano della nazionale Buffon ha polemicamente detto che considera una sconfitta che i cinesi guidino Milan e Inter. La ricetta del presidente Tavecchio è che bisogna ripartire dagli stadi, da dirigenti e da riforme vere. Un programma perfetto, quello di Tavecchio, speriamo che non diventi il solito libro dei sogni. Speriamolo davvero. Di tutto questo poi tra l'altro si tornerà a parlare anche in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Come si diceva, iniziamo dal Friuli Venezia Giulia. Siamo in linea col vicepresidente Sergio Bolsonello, vicepresidente della regione. Buongiorno Bolsonello e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, qual è la vicenda? Il Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge per le chiusure dei negozi e degli esercizi commerciali in genere durante i giorni festivi, che comprende anche il 1° novembre, quindi siamo ad un passo, e che prevede anche multe piuttosto salate a seconda della dimensione del negozio, dai 3.000 ai 36.000 euro. Ebbene, i commercianti di Trieste non ci stanno, o almeno la Confcommercio di Trieste, perché dice: guardate, la nostra è una città ormai turistica e si sta aprendo molto al turismo, per me tenere chiuso il giorno di ogni santi è un problema, e alcuni stanno pensando di ribellarsi. Che dice Bolsonello? Dico che hanno ragione, è una città turistica, facciano domanda, come prevede la legge, di far il comune di Trieste faccia domanda per farsi riconoscere comune turistico, e noi immediatamente, visto che i numeri li hanno per essere riconosciuti come comune turistico, glielo riconosciamo. È una polemica veramente senza senso e soprattutto denota il fatto che non hanno neanche letto la legge. Perché la legge prevede che se tu sei comune turistico puoi tenere aperto nei festivi. Certo. Noi in questo momento abbiamo due soli comuni turistici importanti. Lei dice Bolsonello, mica siamo pazzi, insomma, no? Sì, vabbè, esatto. Già abbiamo forzato ovviamente questa legge, è una legge che vuole in qualche modo stimolare anche il governo a ragionare, al Parlamento soprattutto a ragionare su questo tema. Sono 10 anni che il Parlamento cerca di arrivare a un minimo di ragionamento sulle festività e sulle domeniche. Io sono convinto che le domeniche debbano rimanere aperte, ma le festività, Natale, Santo Stefano, Pasqua, su queste ci possa essere un minimo di ragionamento. Si arriva sempre in commissione, si arriva lì e poi tutto si arena. Noi abbiamo fatto questa legge che dice 10 festività all'anno, poi potrebbero diventare 8, 9, 11, ma insomma 10 festività all'anno: 1 novembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio e via discorrendo. Queste si rimane chiuso. Dove non è chiuso? Naturalmente nelle località turistiche. Al momento, come località turistica, abbiamo solo le due grandi località balneari: Vignano, Sabbiadoro, Pineta, eccetera, e Grado. e abbiamo messo in legge che i comuni che vogliono fare domanda per essere riconosciuti turistici con una semplice delibera di giunta, se i numeri del turismo sono reali, nel senso camere riempite e quindi effettiva attrattività turistica, quelle vengono riconosciuti e fine. Quindi in sostanza, per chiudere Bolzonello, ci deve pensare di piazza, cioè il sindaco di Trieste deve mandarvi una richiesta espressa per essere perché Trieste sia riconosciuta come comune turistico. Esatto. E se lo fa lo approvate in settimana? Penso proprio di sì, che non ci sia nessun tipo, ma poteva farlo un po' prima, visto che la legge è di aprile. Vabbè, lei fa sarcasmo perché siete i colori politici diversi, ma sindaco, siamo di colori politici diversi, ma il sindaco di piazza è una persona spiritosa e saltare allo schermo. Va bene, grazie Sergio Bolzonello, vicepresidente del Friuli Venezia Giulia. E per chiudere rimaniamo nel nord-est e andiamo a Padova con Andrea Battisti, che è un entomologo e docente all'Università di Padova. Battisti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Una parte dei nostri ascoltatori che vivono nel nord-est, e non solo, perché il problema si sta estendendo anche alla Lombardia, sempre nella parte est della Lombardia, per il momento sono invasi dalle cimici. Cronache in realtà anche qua da Friuli Venezia Giulia, le racconta il Messaggero Veneto, da Sedegliano, dove si invoca l'intervento all'alto con gli elicotteri. Allora, bere un bicchiere di latte e con il latte mandar giù anche qualche insetto, infilare la mano in un pigiama, nella tasca del pigiama, e sentire ritrovarsi la mano piena di cimici. Che cosa sta succedendo, Battisti? Ce lo dica. Certamente non è piacevole, comunque è un problema noto. Beh, no, su quello siamo d'accordo, prego. È un problema noto, nel senso che questi insetti che arrivano nelle abitazioni ora arrivano per un motivo molto semplice: devono trovare un posto dove passare l'inverno. Però questa invasione così massiccia è dovuta al fatto che questa è una specie appena arrivata, in realtà da alcuni anni in Italia, ed è comparsa proprio in Emilia Romagna prima, e poi anche in Lombardia, sembra un po' dalla Svizzera, un po' dagli Stati Uniti, dove è già diffusa, o forse direttamente dalla Cina, dove è indigena, proprio dove questa specie vive naturalmente. La temibile cimice extracomunitaria, prego. E quindi come mai si riproduce? Nel senso che loro non hanno comunità. No, sta scherzando, naturalmente. Ma che cosa succede? Si riproducono troppo queste cimici? Sì, perché quando vengono introdotte fuori dal loro ambiente originario, trovano un ambiente completamente privo di antagonisti e quindi esplodono numericamente. E la soluzione più indicata, come in molti altri casi, è sempre quella di riportare gli equilibri naturali utilizzando dei metodi di lotta biologica, di studio di parassita, in modo da poter trovare quali sono i suoi nemici migliori da poter utilizzare anche da noi, però per questo ci vuole tempo. Allora, abbiamo 5 secondi, mi dice se la situazione è destinata ad esplodere nei prossimi anni? La situazione è destinata a permanere ancora per alcuni anni, però di solito si prevede che un po' con le azioni di ricerca, se vengono finanziate in modo opportuno, sì, un po' con altre misure dirette, si possa contenere il problema. E l'importante speriamo. È fare la corretta informazione, per dire alle persone il rischio reale che si va incontro. Okay. In questo caso, oltre a un disturbo, è nullo. Questo è chiaro. E la puzza se le schiacci, come sappiamo. Grazie Andrea Battisti, entomologo e docente all'Università di Padova. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.